Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata, cari gastronauti. Ebbene, oggi dovete prendere penna e taccuino e poi salire in macchina, perché vi porteremo a fare un viaggio meraviglioso in una terra un po' aspra, un po' dura, ma sicuramente bellissima, dove si trovano borghi marinari, città edificate sul tufo, vigneti e pascoli per gli ultimi cowboy nostrani. Un territorio bello e selvaggio, ma ricco soprattutto di sapori decisi. Avete indovinato? Allora vi faccio indovinare io. Ecco, siamo proprio, andiamo sulla spiaggia, avete capito che siamo in Maremma, e io chiamo a parlarne un po', perché sicuramente è uno che adora questa terra, ne ha fatta la sua residenza da tanti anni, e poi soprattutto perché è diventato un produttore di vino, di olio, nonché allevatore anche di maiali di una razza molto pregiata. Buongiorno Oliviero Toscani. Buongiorno a tutti. Oliviero, ma perché hai scelto la Maremma? Perché io penso che uno deve scegliere dove vuole andare a vivere. Cioè, quello che ti dà il destino va benissimo, devi essere fiero, così, perché magari sei anche fortunato. Però non è vero che mogli e buoi dei paesi tuoi sono sempre i migliori. Quindi per trovare le mogli vere e i veri buoi devi girare il mondo e scegliere dove vuoi. Dove ci sono quelli che vuoi tu. E sono arrivato in Maremma nel 61, la prima volta, in casa di amici, e mi innamorai di un poggio da quale disegnavo. Pensavo di essere Paul Klee a quei tempi, e facevo dell'acquerello. Poi 10 anni più tardi avevo una moglie che voleva comprare un'isola, una casa su un'isola. Io ho paura delle isole, perché non posso scappare quando voglio, soprattutto con quella moglie là, avevo paura che avrei dovuto scappare in fretta. E dico, no, se si prende una casa io so dove, e andai su quel poggio a comprare la casa, e da allora vivo lì. Ecco, tu prima hai sposato i cavalli sì, che si adattano benissimo a questa terra, poi via via hai scoperto che quel terreno dà un vino e un olio straordinario, poi ancora sì, appunto l'allevamento di maiali, insomma hai trovato tutto in questa terra. No, ma c'è un posto fantastico, un posto scelto. E devo dire che è un posto con un microclima speciale, vedo il mare da casa mia, sono in un paesino che si chiama Casale Marittimo, che è un paesino ancora mantenuto, non assolutamente rovinato, è sulle colline sopra, si esce alla California, è divertentissimo questo posto. Dalla superstrada si esce la Calivonia, si va verso Volterra, è il primo paese dopo Pippona, cioè questo paesino si chiama Casale Marittimo, e io ho il terreno lì vicino a Casale Marittimo. Ecco, io vi consiglio di andare in questi paesini, magari in calesse con Oliviero Toscani, perché Oliviero... Mi porto il calesse. Ecco, lo so, mi ci hai portato e pioveva anche quel giorno. Ma rimani con noi perché appunto, cioè, è una terra veramente straordinaria anche per il cibo e soprattutto per il pesce. E poi sicuramente il pesce ha come posso dire, un vate, è uno riconosciuto. Buongiorno Luciano Zazzeri. La pinetta a Marina di Bibbona, insomma, è un punto di riferimento, perché è talmente bello poter mangiare nella spiaggia, poi a pochissimi metri appunto dall'acqua, con un personaggio che addirittura il pesce una buona parte se la pesca anche, vero Luciano? Sì, abbiamo le nostre barche, abbiamo le marine vicine, perciò qui a 10 km zero. Senti Luciano, ma il pesce ha una sua stagionalità, questi pochi lo sanno questo particolare, ma tu lo sai benissimo, in questo momento appunto sotto Pasqua, tu quale pesci pensi, cioè speri di trovare e di offrire agli ospiti che arriveranno? Ma sai, ora è il momento della seppia, la seppia è una cosa importantissima nei piatti di pesce, specialmente il cacciucco, la seppia in zimino, ora è il momento, il sumo della seppia. E poi abbiamo le orate, abbiamo i sampietri che ora sono gli ultimi pesci che vengono a fare le uova insieme ai dentici che fanno diciamo il montone, si fecondano e c'è la riproduzione. Quindi ecco, bisogna mangiare sempre i pesci di stagione, come naturalmente anche il pesce azzurro, come il sugherello che ora arriva, e anche la palamita che c'è sempre. Perciò ecco, questo è molto importante. Ecco, sugarello e palamita sono due pesci che io adoro, che la lascio tutto, anche quelli pregiatissimi come il branzino. Purtroppo la gente non li conosce, costano poco e allora li evita. Cioè, ma la palamita è sicuramente superiore, io dico, e magari qui qualcuno mi può contestare, al tonno, che ormai è diffuso, si trova dappertutto. È vero, Luciano? Senti, Davide, il tonno è l'ultimo pesce da mangiare. Ecco. Perciò questo è, ormai sono 4-5 anni che io non ho più il tonno in casa. Lo tengo, se lo trovo come voglio io, lo dico ai clienti lì per lì al momento, però non lo tengo sulla carta. Io ieri sera ero a Volterra a fare una scena, ho fatto la palamita con una crema di piselli e un po' di zenzero marinato, era eccezionale. Naturalmente la palamita ha una particolarità, non deve essere stracotta. La palamita si serve cotta delicatamente e ha un sapore più lungo di quello del tonno, anche se a prima vista potrebbe essere rosa e dà meno effetto, ma purtroppo le cose come i vini pastosi, i vini con super concentrati, anche il tonno vince all'occhio ma non in bocca. Oliviero, tu che conosci molto bene la Maremma, c'è un qualche posto sperduto che viene poco frequentato così anche dal turista, dal viaggiatore, che tu consigli di visitare in Maremma? No, è incredibile, perché proprio poco tempo fa con mio figlio Rocco, con due motociclette, abbiamo detto facciamo un giro proprio attorno a casa, poi alla fine abbiamo fatto 200 e passa chilometri. Le strade c'è asfaltate, ma la più vicina a quella sterrata, cioè le strade più piccoline. Ho scoperto dei paesini sperduti in mezzo al niente, però arrivi col ristorante, la trattoria fatta dal padre, lui e la moglie che ti fanno da mangiare in modo incredibile, in piazza, mangi fuori con le campane che suonano. No, ma ragazzi, è una roba incredibile, è impensabile. Io dico sempre, viviamo nel paese più bello del mondo, con una qualità in tutto, dal cibo al paesaggio alla gente, incredibile, e nello stesso tempo questo posto incredibile è all'interno di un sistema in crisi. Ma non capisco io come possa succedere questo. Beh, sai, l'Italia secondo me è tutto un villaggio, dalla Toscana fino ad andare fino in fondo, anche la Basilicata è un altro paese che bisognerebbe frequentarlo così in motocicletta, scoprire questi piccoli paesi. Solo che l'italiano preferisce le Maldive, e Luciano preferisce il sushi. Tu che ne dici? Ma io non vado alle Maldive, preferisco andare a Positano, preferisco andare sul Romito a Livorno, che dovrebbe essere sfruttato un po' meglio dai livornesi, non solamente per prenderci il sole. Abbiamo un bene della natura che veramente è lì a se stesso, ma tutta la nostra costa è bellissima, da scoprire, però da amministrare veramente. I nostri governanti non hanno ancora capito questa cosa. Ma Zazzeri, com'è l'olio? Com'è il vino di Oliviero? Ah, il vino di Oliviero è buonissimo, guarda, sta avendo successo. All'inizio, sai, come tutte le cose, la gente ha un po' di diffidenza perché è toscani, perché è Oliviero, perché c'ha il nome, ma non è così, ecco, a distanza di tempo le vigne mature, poi l'affinatura anche del vino, si accompagna anche con qualche piatto anche di pesce. Perciò ci sta bene. Bene, grazie a Luciano Zazzeri e Oliviero Toscani. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in cammino in questa terra definita anche da una famosa canzone amara, ma poi scopriremo perché è amara. Tutti mi dicono mare, mare, mare, e a me mi pare una mare. Beh, forse lo era un tempo, perché ora addirittura è considerata la Bordeaux italiana. Molti vini prodotti in questa terra sicuramente sono a livello mondiale, tra i primi a livello mondiale. E c'è anche un'azienda guidata da una donna. Si parla tanto di quote rose in questo periodo, ma il mondo del vino nel tempo così ha portato alla ribalta moltissime produttrici, tra cui Cinzia Merli dell'azienda vinicola Le Macchiole di Bolgheri, addirittura di Bolgheri, quindi noto, diciamo che chi ha studiato, almeno chi ha fatto la terza media, Bolgheri lo conosce come con i suoi cipressi. Buongiorno, buongiorno Cinzia Merli. Buongiorno Davide. Senta, come mai, cioè cos'è successo, questo diciamo successo del Bordeaux italiano? Cos'è che ha portato i vostri vini, i suoi e anche di altri produttori, a livelli straordinari? È veramente una terra generosa e non amara forse la Maremma? Sicuramente non in questa parte della Maremma, siamo estremamente fortunati grazie allo splendido clima che abbiamo, il mare nella vicinanza, la conformazione geografica molto particolare, è veramente una zona baciata da Dio in questo senso. Senta, ma vi sta male questo rapporto con il Bordeaux, chiamarvi Bordeaux italiana, oppure preferireste Maremma e basta, vino della Maremma? Ma, per quanto mi riguarda preferirei semplicemente Toscana, perché in primis mi sento toscana, assolutamente toscana. Di Bordeaux forse abbiamo la comunanza con Bordeaux forse riguarda soltanto l'utilizzo delle stesse varietà, e quindi è questo l'unico gancio che sento. Lei ha valorizzato veramente al massimo un vitigno che in Italia probabilmente non è molto amato, forse non è molto molto molto diffuso, e ne ha fatto un grandissimo vino. E come mai lei ha scelto appunto questo vitigno per fare creare questo grande vino? Quali sono, diciamo, il suo rapporto con questo vitigno straordinario? Stiamo parlando di Cabernet Franc. Sì, giusto? Sì, giusto, ecco, mi ha fatto bene a ricordarlo. Io amo talmente questo vino che me ne ero dimenticato. Sì, forse lo diamo già ormai, anche noi lo diamo per scontato, cioè parlando di Paleo appunto pensiamo immediatamente al Cabernet Franc. È un vitigno che ci ha sorpreso, non abbiamo ovviamente scoperto noi, neanche noi per primi l'abbiamo portato a Bolgheri, perché altri produttori l'avevano fatto prima di noi. La scommessa che ha fatto Le Macchiole è stata quella di investire in questo vitigno in purezza, cioè lavorarci in purezza, certo, per ottenere un vino appunto come il Paleo. È sorprendente perché tutto quello che di negativo è stato attribuito negli anni al Cabernet Franc qui non c'è, non si realizza, non si manifesta in questo modo. È un vitigno che ha trovato una grandissima comunione con il territorio, certo, con il clima, e quindi riesce a dare vini di grandissima eleganza, di un frutto rosso sorprendente, sempre ben bilanciato in ogni vendemmia, con le acidità che non sono mai eccessive, sgraziate, niente di erbaceo, tutte caratteristiche che spesso invece troviamo negative nelle Cabernet Franc, soprattutto l'aspetto erbaceo. Bene, da Bolgheri, rimanga con noi comunque, andiamo a Castiglione della Pescaia, anzi nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia, andiamo in una tenuta bellissima che poi è stata trasformata in un albergo di grandissima qualità. Andiamo alla tenuta La Badiola e all'Hotel Andana, andiamo da Martino De Rosa. Buongiorno Martino. Buongiorno Davide, buongiorno. Ecco, diciamo che questo grande investimento è stato fatto dalla famiglia Moretti. Come mai è stato scelto appunto la Maremma? Perché? Visto che diciamo che non c'era un albergo, un grande albergo in questa tenuta, e voi avete pensato subito al turismo, addirittura poi vedremo anche con un abbinamento con un personaggio molto noto. Ah, è stato tutto molto casuale e molto istintivo. Noi eravamo già in Maremma con Petra e mio suocero l'hanno portato a vedere questa proprietà, che effettivamente è straordinaria di suo, noi non abbiamo meriti, che era la casa del Granduca, e su un giorno mi ha parlato di questa cosa, siamo andati con alcuni amici e lui a vederla, è stato un colpo di fulmine, abbiamo deciso di comprarla, proprio una cosa meno strategica di quello che appare. Ecco, poi avete fatto un abbinamento con un grande chef francese, forse uno dei più grandi addirittura, con Alain Ducasse. E Alain Ducasse credo che sia stato abbastanza colpito dalla Toscana e dalla Maremma e anche dai suoi prodotti una volta arrivato lì. Sì, anche lì di nuovo molto casuale. Io, siccome la proprietà meritava veramente delle soluzioni di altissimo livello, abbiamo subito pensato a lui per il suo modo di approcciare internazionale, professionale, tutta una serie di fattori, e quindi per una proprietà così grande abbiamo pensato fosse la persona ideale. Sono andato a parlargli, ci conoscevamo, lui mi ha guardato come un matto e mi ha detto: sai che io ho detto già me in Italia, quindi non verrò mai in Italia. E io gli ho detto: facciamo una cosa, vieni a vedere un posto unico, magari mi dai un consiglio. E lui è venuto e si è innamorato della Maremma, che lì tutto molto veloce, molto istintivo. Ecco, ha sposato anche là un po' di piatti toscani, perché all'interno di questa tenuta c'è anche una trattoria toscana. Esattamente, il ristorante si chiama Titit, che sta proprio per Trattoria Toscana, e sviluppa un grande fuoco a vista, quindi grandi carni, prodotti della proprietà. Noi abbiamo le nostre animali, abbiamo il nostro orto, e lui lavora in questa direzione, esclusivamente in questa direzione. Ecco, anche voi avete anche un'altra azienda, Petra, quindi sempre in Toscana, che è stata diciamo disegnata da un grande architetto che è Botta, se non erro. E ecco, anche lì, cioè, voi avete sposato il territorio. Sì, insomma, ci siamo, sai, mio suocero, che è un po' il nostro capofila, ama fare un po' i progetti, è un costruttore di fatto, e quindi gli piace costruire le cose da zero. In Maremma abbiamo visto i presupposti giusti, cioè una terra di grandissima potenzialità che stava ripartendo, e quindi anche un po' la libertà di agire con il nostro modo di fare, che è sempre un po' dirompente, indiscutibilmente. Cinzia, io volevo chiederle, ma i suoi vini in Francia, come vengono giudicati? Molto bene, purtroppo per me chiaramente non è un grande mercato, cioè vengono ben riconosciuti, ma non, a livello di export non è uno dei mercati miei principali, per ovvie ragioni. Ecco, l'uvaggio bordolese, che è un po' la base sua di altri produttori, ovviamente di ispirazione francese, ma cosa c'è di italiano su questa cuvée? Il sole, assolutamente. Io credo che nei nostri vini il sole, l'influenza del mare sia estremamente evidente, cioè l'espressione di questi vitigni è particolare e estremamente diversa rispetto ai francesi, pur avendo una comunione di fondo, che appunto sono le varietà. Ecco, io mi sono sempre chiesto, visto che appunto la Maremma ha una produzione importante anche a livello mondiale, riconosciuta un po' da tutti con diciamo l'uvaggio bordolese, con quali piatti della tradizione si sposano questi vini? Ci sono dei piatti che si sposano con questi vini, oppure questi vini sono veramente adatti ad essere così bevuti fuori? Entrambe le situazioni. Ci sono vini che sono perfetti da degustare con il cibo, e ci sono vini che invece magari sono più adatti a trascorrere una serata fra amici davanti a un camino, magari anche se non è più il tempo in un posto dove puoi condividere la compagnia con le persone che ami. In termini di abbinamento io sono abbastanza fuori dagli schemi, nel senso che mi piace anche giocare un po' e provare, forse estremizzando, ad assaggiare piatti di pesce. Ecco, un paleo col pesce. Sì, paleo, ecco, col pesce magari dobbiamo scegliere quale pesce, però certo. Sicuramente il blend con il nostro cacciucco tipico, che è appunto una zuppa tipica di questa zona, l'abbiamo già provato più volte e funziona veramente bene. Ecco, voglio chiedere a Martino De Rosa un posto, un ristorante, una trattoria che lo ha particolarmente colpito in Maremma. Per me Zazzeri alla Pineta è un ristorante unico al mondo, cioè, proprio per me è un esempio di qualità nella persona, in quello che fa e nella location e in come interpreta tutto. Proprio per me è uno dei miei luoghi preferiti al mondo. A Cinzamelli invece chiedo un luogo, una località, un paesino, un posto abbastanza magari poco frequentato da segnalare ai nostri radioascoltatori in un viaggio in Maremma. Ma in realtà io mi definisco una donna di mare, sono nata a pochi chilometri da Bolgheri, a pochissima distanza dal mare. Ci sono delle spiagge magari meno conosciute della zona che per me rappresentano veramente casa, e soprattutto dopo i miei viaggi lavorativi diventano una necessità vitale, cioè devo, la prima cosa in assoluto che devo fare al mio rientro. A me viene in mente il pallone, per esempio. Ecco, forse il pallone è l'esempio migliore in questo senso. Bene, grazie a Cinzia Merli e a Martino De Rosa. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio magico in questa Maremma, che un tempo era definita Marama, una parte della Maremma, ma diciamo che offre delle possibilità davvero straordinarie, sia come territorio, come bellezze, come spiagge, ma soprattutto anche come vini e come sapori decisi anche della sua cucina. Ebbene, abbiamo con noi un personaggio che è famoso nel mondo, forse non voglio far torto a nessuno, ma ha prodotto nel tempo il vino conosciuto, più conosciuto appunto italiano nel mondo, che è il Sassicaia. Buongiorno al marchese Nicolò Incisa dalla Rocchetta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io la prima cosa che le voglio chiedere è questo: come le è venuto in mente di creare questo uvaggio di Bordolese che ancora in Italia sicuramente non era conosciuto e non era forse mai sperimentato, che poi è stata una trovata che ha trascinato tutto un territorio? A onor del vero, l'idea è stata di mio padre, che già nei lontani anni 20, quando vivevo in Piemonte, perché la mia famiglia è di origine piemontese, aveva sperimentato del Pinot Nero in una zona dove regnava il Barbera, e però poi si è sposato, si era trasferito e l'esperimento non è andato avanti. E, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale si è trasferito qui a Bolgheri, e c'aveva sempre questa idea in testa che in Italia non si era fatto abbastanza per cercare di andare a competere con i francesi nei vini di qualità, e qui a Bolgheri, Maremma, essendo un clima diverso a quello del Piemonte, invece del Pinot Nero che ha bisogno di climi più freschi, ha pensato di piantare il Cabernet Sauvignon, che è un vitigno che si adatta più facilmente a climi diversi. Ecco, la prima annata appunto del Sassicaia, la prima annata è 1968? Ma diciamo che il 68 è la prima annata che è stata messa in commercio, ma fino al 68 avevamo una piccola produzione che veniva consumata, tutta, diciamo, bevuta nell'ambito della famiglia, degli amici. E beh, bevevate molto bene, insomma. Abbastanza, però diciamo che erano i primi esperimenti e non eravamo ancora sicuri di quello che sarebbe stato il risultato. E la primissima annata in effetti è stata il 48, poi il vino è stato un po' dimenticato in cantina, nei primi momenti tutti erano rimasti un po' sorpresi da questo vino così diverso da quello che veniva già prodotto in zona. È stato un po' dimenticato in cantina, e con gli anni il vino ha avuto un'evoluzione molto positiva, e verso la metà degli anni 60 abbiamo deciso di piantare nuove vigne e poi di avventurarci verso la commercializzazione di questo vino. Ecco, rimanga con noi, perché voglio anche chiedere, ora abbiamo una chef bravissima, oggi è il giorno delle donne, perché prima abbiamo avuto una produttrice di vino donna, ora abbiamo una chef importante, perché abbiamo Valeria Piccini, che è un 2 stelle, vorrei ricordarlo, una delle poche donne al mondo appunto che ha 2 stelle della guida Michelin, il suo ristorante Caino a Montemerano, altro bellissimo borgo. E io voglio chiedere a Valeria lei ha preso molti piatti dal territorio, della tradizione, poi li ha fatti sue con la sua creatività e la sua bravura. Ecco, ma offre molto, diciamo, la tradizione maremmana in cucina? Buongiorno. Buongiorno Valeria. Buongiorno. Diciamo così, i piatti della tradizione maremmana, quelli veri, non sono tantissimi. Purtroppo la Maremma è sempre stato un territorio abbastanza povero, quindi c'è una grande, diciamo, un grande patrimonio di minestre e piatti unici che dovevano comunque riscaldare, corroborare e anche sostenere, insomma. Quindi sono piatti piuttosto ricchi e non sono tantissimi, però riusciamo comunque a trarne, ecco, ispirazione. Me ne indichi 2 o 3 da cui hai tratto ispirazione? Per esempio da noi è molto tipico il buglione. Sì. Che già la parola lo dice, veniva fatto con un, era un misto di carni, le parti diciamo così meno pregiate di tutte le carni, o addirittura veniva fatto anche con degli avanzi, no? Ci si metteva pollo, coniglio, agnello, qualche pezzetto di cinghiale, veniva fatto un umido, lasciato il sugo piuttosto lento e veniva servito con del pane abbruscato e agliato. Noi abbiamo fatto un piatto usando solo l'agnello, che secondo me è la carne più buona e più saporita che abbiamo, e ci abbiamo rivisitato mettendo, diciamo così, del pane zuppato nel piatto per ricordare da che cosa viene, però insomma un piatto elegante, un agnello cotto al momento, un po' diverso. Ecco, rimani con noi perché diciamo che la Maremma esprime anche una realtà che è unica, unica. Quando parliamo degli ultimi cowboy nostrani, parliamo dei butteri. Buongiorno a Marco Stefanucci. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo buttero maremmano presso la fattoria Il Marruchetone a Roselle, in provincia di Grosseto. Senta, Stefanucci, ci vuole spiegare cos'è un buttero? Cosa fa il buttero? Dunque, il buttero è praticamente colui che gestisce un branco di bovini o di cavalli allo stato brado, diciamo. Quindi è colui che controlla tutto l'andamento della parte zootecnica dell'azienda. E quindi, ma è ancora molto diffuso come mestiere? No, purtroppo no. Purtroppo no, è un mestiere che ormai sta decadendo, sono pochissime le aziende che ormai allevano bovini di razza maremmano, ovviamente allo stato brado, in quanto le estensioni si sono ridotte, le aziende sono molto più piccole e quindi sicuramente è un mestiere che sta scomparendo, però so che diciamo che in queste settimane si può assistere alle varie fasi dell'allevamento del bestiame e andare a cavallo con i butteri. È una notizia vera questa? Posso darla? Sì. Certo, come no, è verissimo. Noi abbiamo tre appuntamenti, il 21, il 25 di aprile e il 1 di maggio, nei quali apriamo le porte dell'azienda, diciamo, e facciamo una rivisitazione, una ricostruzione del lavoro del buttero, facendolo conoscere a turisti, a tutti quanti che volessero partecipare a questa iniziativa. Valeria, abbiamo parlato di piatti giustamente con una terra così diciamo decisa, così selvaggia, non sono tantissime, ma le materie prime ci sono e come? Come no? Certo, le materie prime ci sono tanti orti, c'è addirittura dei ragazzi che hanno vicino a noi hanno impiantato un orto sinergico. Quindi ci sono delle bellissime verdure con un sapore vero e intenso e, come diceva il ragazzo, ci sono degli allevatori di maremmana. La maremmana è una bestia da lavoro, quindi la carne è abbastanza turgida ma molto saporita. Infatti noi cerchiamo di utilizzare in questo momento nel nostro ristorante anche le parti meno nobili di questo animale, come per esempio il pannicolo e per esempio il cuore. Ecco, il cuore fatto alla brace è una cosa stupenda. È vero, vero. Diceva mio nonno, che era un commerciante di carni, ma in Romagna, che la chianina era una razza, diciamo, che faceva poca fatica, quindi la carne non era sapida come quella della romagnola. Penso che sia la stessa cosa con la maremmana. Ma voglio tornare al Marchese, voglio chiedere, il Sassicaia dal 68 ad oggi tutte le annate sono state prodotte o ce n'è una che manca? No, ne mancano due, manca il 69 e il 73, mi pare. Quindi sono, il 73. Sono due annate, per quale motivazione? Sono state scartate perché non erano all'altezza? Il 69 c'era una produzione minima e quindi non credo che sia stato assemblato con l'anno dopo. Sì. Il 73 è stata un'annata per ragioni forse climatiche, a quei tempi insomma avevamo un'organizzazione abbastanza artigianale, è stata un'annata che non valeva la pena imbottigliare. Senta Marchese, può dare un'indicazione ai nostri radioascoltatori, un consiglio di un ristorante, escludiamo Caino, dove consiglierebbe di andare a un nostro radioascoltatore che va nei prossimi giorni in Maremma? Ma in Maremma purtroppo abbiamo perso il Gambero Rosso, che era il ristorante qui più vicino, ma dipende se amano il pesce, un ristorante possiamo raccomandare la Pineta di Marina di Gibbona. Tutti vanno verso questo, 100% del referendum. La ringrazio Marchese, la ringrazio, ma Marco Stefanucci invece voglio chiedere un luogo, una località particolare, poco conosciuta da andare a vedere, a visitare. Beh, fondamentalmente dalle nostre parti località poco conosciute fortunatamente non ce ne sono. Ci sono molte zone interessanti anche qui vicino a noi, qui in Maremma, come può essere Sorano, può essere Sovana. Abbiamo anche qui a Roselle fondamentalmente il parco archeologico che può essere interessante da visitare. Beh, grazie Marco Stefanucci. A Valeria chiedo, anche magari se so che la metto in difficoltà, una trattoria, una cosa abbastanza rustica dove andare a mangiare in Maremma. Dunque, io ora mi viene subito in mente il pesce luciano, ma lasciamo perdere. Sì, ormai sì. Dalle parti nostre, andando verso Sovana Pitigliano, c'è il Tufo Allegro, sì, a Pitigliano. Che è bellissimo da visitare soprattutto dopo il tramonto, che ha un'illuminazione particolare, quindi io direi di andare verso Pitigliano, il Tufo Allegro, poi c'è Saturnia, le terme, c'è Michele e i due Scippi a Saturnia, e la zona è tutta bellissima e direi che si mangia bene dappertutto. Bene, grazie a Valeria Piccini e a Marco Stefanucci. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio in Maremma, in questa terra che avete sentito dai nostri ospiti, che offre tantissime potenzialità, sia vino, sia cibo, ma soprattutto paesaggi e territori. E devo dire che è ricca, veramente ricca, di prodotti che sono anche formaggi, sono anche salumi. E soprattutto di questi posti da andare a scoprire, che alcuni dei nostri ospiti così hanno suggerito, ma poi magari ne suggerirò anch'io quando saremo sul finire di questo nostro viaggio. Ma dicevo vino, ho detto prodotti, ho detto cucina, ma è una terra anche che offre delle qualità importanti in alcuni prodotti come l'olio. E abbiamo con noi Giorgio Franci, del Frantoio Franci di Montenero d'Orcia, sempre in provincia di Grosseto, che devo dire che tra gli oli è sempre considerato uno dei migliori oli italiani. Allora, Franci, è molto diffusa l'olivicoltura appunto nella sua terra? Buongiorno a tutti. Sì, l'olivicoltura fa parte della tradizione contadina, fa parte di chi da noi è cresciuto a contatto con la terra, a contatto con la campagna. Chiunque possieda un piccolo appezzamento di terra nella nostra zona ha un pezzettino di vigna, un po' di terra magari dedicata all'orto, ai cereali, e ha un pezzetto di olivi. Questo qui è stato così da sempre. Le cultivar più diffuse nel suo territorio, quali sono? Ma sicuramente il Frantoio, la varietà più tipica e più caratteristica della Toscana. È presente poi anche in buona percentuale il Moraiolo, il Leccino, i vari impollinatori, e nella nostra zona, proprio nella zona di Montenero, è diffusa molto anche l'olivaccia seggianese, che mentre le altre cultivar le ritroviamo in altre zone della Toscana o dell'Italia, la seggianese è solo da noi. Sì, è vero. Senta, lei appunto ha detto altre parti della Toscana, qui alcune delle cultivar che lei ha detto sono presenti anche in altri territori. Ecco, sì, ci sono differenze però, se uno va a assaggiare un Frantoio nella zona del, diciamo, del Chianti o una zona di altra di Toscana rispetto alla vostra, sicuramente poi profumo e diciamo gusto sono completamente diversi. Sì, diciamo che territorio, microclima, composizione del suolo stesso e danno delle impronte che poi caratterizzano i prodotti in modo unico. Quindi diciamo che un olio, in questo caso un olio tipico, è risultante di varietà, prima battuta, perché la varietà è quella che caratterizza principalmente un prodotto, epoca di raccolta, maturazione, ma poi microclima e terreno danno un'impronta finale in modo unico. Ecco, ora andremo ad Orbetello, ma poi torneremo da Franci, andiamo da Pierluigi Piro, presidente Orbetello Pesca Lagunare. Ecco, la cosa interessante, diciamo, di questa organizzazione è che sono al tempo stesso pescatori e ristoratori. Quindi Piro, una grande garanzia di freschezza del pesce? Buongiorno, sì, garanzia di freschezza, di tracciabilità soprattutto. Ecco, quali sono le specie più, diciamo, che più voi pescate e quindi offrite diciamo, all'ospite del vostro ristorante? Il nostro ristorante che vanta ogni anno circa oltre 40.000 coperti, 40.000 presenze, viene, come dire, fa parte appunto di un progetto nato per valorizzare il pesce fresco a chilometro zero in generale. Nella laguna d'Orbetello i pesci più importanti sono le orate, le anguille. Stiamo rivalutando alcune specie del cefalo che ad oggi risultavano pesce povero e non conosciuto, e nel nostro ristorante stanno diventando l'eccellenza. Quindi, diciamo, pesce d'allevamento? No, diciamo, nella laguna d'Orbetello l'allevamento è estensivo, cioè praticamente il pesce entra dal mare, non può più uscire, e oltretutto viene anche seminato da noi da una media di 300-400 mila pezzi l'anno, e cresce in laguna mangiando al naturale. Senta, il ristorante, mi dia qualche piatto del ristorante? Vabbè, vado sul sicuro quando le dico uno spaghetto alla bottarga di Orbetello, però potrei anche aggiungere un antipasto di prodotti affumicati, di filetto di cefalo affumicato, anguilla sfumata che risale addirittura alla tradizione spagnola, all'epoca dell'invasione spagnola nei reali presidi, nel reale stato dei presidi. Ecco, c'è la bottarga vostra, dei vostri pesci, che viene spacciata magari anche in altri posti come bottarga locale, insomma, questo è non posso assicurarlo, ma mi sa che vado molto vicino alla verità. Ma io voglio tornare nella Val d'Orcia, perché è una vallata davvero stupenda, molto bella, io la definisco lunare. E allora voglio chiedere a Giorgio Franci che ci dia qualche luogo da andare a visitare in questa vallata stupenda. Dunque, la Val d'Orcia è sicuramente uno dei posti più belli in assoluto. Io ho saputo pochi giorni fa, pur abitandola, ma l'ho saputo solo pochi giorni fa, che per National Geographic è la zona più fotografata del mondo. Ah, quindi questo sicuramente indica che le bellezze naturali sono tante. Ecco. È una vallata che offre tanti scorci, per esempio il nostro piccolo borgo, Montenero d'Orcia, è un paesino piccolo, che però ha dei punti di vista sul territorio, sulla vallata, che sono veramente unici. Siamo vicini a Montalcino, siamo vicini a Pienza, siamo vicini a Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso, le pendici della Miata. La Miata, che da noi dista solo 10-15 minuti, ha la più bella faggeta d'Europa. Posti unici e molto meno conosciuti magari rispetto alla Val d'Orcia, ma non per questo meno interessanti e meno affascinanti. Ecco, allora mi dia anche qualche posto dove andare a mangiare, qualche trattoria poco conosciuta in questi angoli appunto molto belli di questa vallata. Allora, a Montenero d'Orcia sicuramente l'antica fattoria del Grottaglione. Ecco. Locale molto, molto accogliente, con il patron Flavio, persona di grande ospitalità. Salendo verso la Miata, in località Pessina, al Silene, dove Roberto Rossi ha una cucina tipica del territorio presentata con grande eleganza e attenzione a scelta della materia prima. Spostandosi verso Montalcino potrebbe essere il Bocconi di Vino, dove la famiglia di Mario Fiorani ha un ristorante molto accogliente, molto tipico, con una bellissima vista sulla vallata di Montalcino. Bene, io la ringrazio perché lei ci ha dato veramente una serie di grandi spunti, ma voglio tornare per chiudere a Pierluigi Piro, e voglio chiedere anche lui, Orbetello dintorni, un turista che arriva, lei dove lo farebbe andare? Orbetello per me è l'isola che non c'è, nel senso che tutti la sognano e finché non ci arrivano non si rendono conto effettivamente cosa gli si presenta, dall'oasi naturale ai collegamenti all'Argentario, alla vicinanza di Capalbio, ma soprattutto Orbetello è storia, tradizione, cultura. Noi portiamo i nostri amici, i nostri clienti in battella a visitare la laguna, ed Orbetello vista dalla laguna è fantastica, soprattutto quando nel calar del sole si possono ammirare i riflessi del sole, dell'acqua e dei gabbiani e dei fenicotteri che, come dire, intrecciano nel cielo voli e parabole uniche. Bene, io ringrazio Piro e Franci appunto della loro partecipazione, e siamo arrivati veramente in fondo, e devo dire che, cari radioascoltatori, vi hanno fatto i nostri ospiti un regalo di un viaggio di Pasqua e di Pasquetta, quindi se avete preso appunti sicuramente sarete felici di andare a visitare questa Maremma. Io ringrazio Anita Panizza in redazione e Filippo Oreggi in regia. Vi auguro una buona Pasqua e un buon lunedì di Pasqua. Un caro saluto da Davide Paolini.